Fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Riapriamo il nostro studio, riaccendiamo i nostri microfoni per tornare in diretta e lo facciamo con altri ospiti di questo bellissimo venerdì qui al Convento di Lonato. Benvenuti ragazzi, allora chi abbiamo qui con noi? Abbiamo qui il mister Real Valle GSCL. Ah, attenzione, attenzione, grande mister, una personalità mister abbiamo qui. Mister emergente del Real. Emergente, rampante, giovane, rampante, giovane rampante. Un giovane mister e poi abbiamo... Il nome, nome? Lorenzo. Lorenzo, ok. E Lucchini, cognome. Lorenzo, ah non il Magnifico perché già e ce n'è stato un altro. Non sono il Magnifico. Non si copia. Ma sono The Lucky, visto che il mio cognome richiama un po'. Ah, The Lucky, il Fortunato quindi. Il Fortunato, va bene, va bene, poi... E abbiamo noi il presidente del Real Valle, il mitico Real Valle. E allora dovete dirmelo prima che avevamo le massime cariche sì, qui massime ci, cariche ci mettavamo eleganti, non siamo vestiti giusti per l'occasione. Cioè voi sì, no, dico noi non siamo vestiti giusti per l'occasione. Perché abbiamo, intanto un ragazzo ha mandato un messaggio molto chiaro in tutto questo. E no, dicevo, abbiamo qui insomma i grandi, più grandi rappresentanti di questa squadra che è venuta a festeggiare con noi. Allora aspetta, vediamo se ricordo bene perché ho parlato prima con i ragazzi. Calcio 7, vabbè quello esatto. Sì. Terzi in classifica. Terzi in classifica. Pausa per il campionato, chiaramente, sì, per le vacanze sì. Natalizie. E però come sta andando questa stagione? Sta andando da Dio, col nuovo allenatore Mister Lucky One. È appena arrivato. 5 giornate, 5 vittorie consecutive. Neanche, cos'è, neanche Conte è partito così forte. Cioè, speriamo di tenere questo, così, perfetto. Questo ritmo. Così. Voglia. Hai paura dello scivolone, no? No. Come reagirai all'eventuale, perché prima o poi metti il cuore in pace perché prima o poi una la perderete, come reagirai dopo questa striscia di vittorie positiva? Non ho paura perché credo nei ragazzi, credo nel presidente e siamo un gran gruppo. Anche se dovesse capitare uno scivolone ci riprenderemo alla gara. Oh, guarda com'è già diplomatico. Sì, ma già. Spero che non capiti. No, non capiterà. Il panettone l'ha mangiato, ma la colomba... La colomba in dubbio. Allora, no, cominciamo con qualche cenno anche biografico. Presidente, da quanto tempo esiste la società? Esiste dal 2000. Quindi, sì, dal 2000. No, è vero, mi dicevano i ragazzi che l'anno prossimo fate il ventennale. Ventesimo. Tu in particolare l'hai presa in mano da? Saranno 10-11 anni. Quindi la metà della sua vita. Esatto. Ok. E come mai hai scelto questo giovane ragazzo? Perché credo nei giovani, sempre. Sì? Essendo okay. Io già vecchio, devo credere nei giovani. Colpito di lui? Lui, a vederlo, ci ha diretto un allenamento, ho capito subito che era in campo. Ok. Davvero. Me l'ha presentato un giocatore, o un ex giocatore, ma ho visto subito che aveva le doti. La stoffa. Sì, ho visto. Ok, allora al contrario chiediamo invece a Lorenzo, giusto? Sì. Che cosa ti ha affascinato, come si dice, come dicono quelli bravi, del progetto che il presidente ti ha proposto? Mi ha affascinato il fatto che era un gruppo sicuramente interessante, era un gruppo con dei ragazzi di qualità, dei giocatori capaci, e questo mi piaceva e sicuramente facilitava il mio lavoro. E poi anche l'idea di essere entrato in una squadra che è come se fosse una famiglia. Ah, sì. Si vede dentro e fuori dal campo, soprattutto fuori. Siamo forti al terzo tempo, diciamo. Il famoso terzo tempo. Il quarto tempo, tutti i tempi fuori campo. Siamo ci vuole. E questo mi è piaciuto, allora ho detto perché no? Ho preso in mano questa esperienza e la sto portando avanti il meglio possibile. Bello, alleni da tanto? Allora, io a dire la verità ho allenato per 4 anni fa, allenavo i ragazzini più piccoli. Ok. Bambini 9, 10, 11, 12 anni, poi dopo. Che è un altro mondo, è completamente un altro mondo. È un mondo diverso, diciamo. Lì, certo. Lì insegni, stai tranquillo, devi essere paziente. Invece con i ragazzi grandi, adulti, devi avere anche una certa personalità, devi sapere quando puoi dare bastone, quando carota. Questo è piacevole, è un'altra vita. Sì, è un altro stimolo diverso, ma c'è un modo diverso di rapportarsi. Esatto. A questo punto anche volevo chiedere, perché siamo abituati, come penso il presidente in primis, ma chiunque di noi che ha calcato un po' i campi di calcio in giovane età, e il sogno di tanti è quello di diventare un calciatore. Perché invece tu, come si dice anche in questo caso nel gergo più particolare, sei andato dall'altra sponda, cioè dall'altro lato? Cioè, cosa ha colpito del non essere in campo ma essere un po' dietro le quinte in regia? Beh, diciamo che da quando ero piccolo mi ha lasciato talmente tante volte in panchina il mister che avevo. E vuole vendicare. Che mi è venuta voglia di stare in panchina e di dire forse so farlo meglio di loro. No, scherzo. No, diciamo che a me sembra. Però vedi che è così, no? Cioè, chiunque qualunque di noi da piccolo ha giocato e sognava di fare calciatore. Poi è strano che a un certo punto ti scatta una scintilla e dici: aspetta che mi metto dall'altra parte. Sì. E volevo capire appunto da dove era nata e da cosa era nata. No, a me è nata perché, diciamo, mi ha sempre affascinato la figura dell'allenatore, quasi più che del giocatore, nonostante che fossi stato un ragazzo, un giocatore, un calciatore, vabbè, di livello dilettantistico. E poi l'idea di crescere una squadra e avere la possibilità di dirigerla è interessante. Non solo essere una parte di, ma essere una parte importante che aiuta i giocatori a esprimersi al meglio. Beh, dai, molto, sì, molto sì. Interessante. Poi diciamo che a lui piace fare il leader, ho già visto. Sì, sì, leader, un condottiero. Esatto. Che però... E quello mi ha colpito di certo, lui, certo. Che sa, nonostante l'età, riesce a dirigere giocatori molto certo. più vecchi di lui e li fa stare tranquilli, gli dà la tranquillità, ma soprattutto li sprona durante la partita. Certo, certo. Abbiamo esonerato un allenatore per prendere. Ah, per averlo? Anche sì, una scelta. Messo in parte perché una scelta coraggiosa, una scelta coraggiosa. Coraggiosa che ci ha premiato comunque. Bene, bene, l'importante è quello. E con che modulo giochi? 2-3-1? Con che giochiamo con l'1-1-3-1, che in pratica sarebbe un ultimo. Ah, col libero, difesa, col libero. Tanto non c'è il fuorigioco, giusto? A 7, quindi. Esatto, va bene. Libero quel signore lì che ci vede in diretta. È un play basso davanti alla difesa, perché mi piace avere un giocatore davanti alla difesa che sa giocare un po' il pallone. Un esterno destro, un esterno sinistro, un centrale di centrocampo, che è, diciamo, quasi un trequartista. Esatto. Aggiunto, e poi la prima punta. La prima punta, bene. Il presidente è d'accordo col modulo? O è un po' Berlusconi che vuole imporre lui la formazione? No, l'albero di Natale. Assolutamente, no. Sai che, resto fuori. Sai che se fosse un Berlusconi giocherebbe 1-1-5, perché esatto. Vuole tutti davanti. Berlusconi voleva sempre tutti davanti. Chiaramente parliamo di Milan, non stiamo parlando di politica, non stiamo parlando esatto. di nessun cenno di quel genere. Grande, perché, insomma, esatto, c'è un po' quella leggenda che era difficile allenare il Milan perché appunto perché Berlusconi. Imponeva la formazione. E come mai invece, domanda per entrambi, siete andati sul calcio a 7? Perché anche in questo caso il più conosciuto, passatemi il termine, quello a 11, come mai invece voi vi siete buttati su questo tipo di diversa, leggerissima diversa allora, declinazione del calcio? Allora, io diciamo che ho avuto la possibilità di allenare i ragazzini, come ti dicevo prima, a 7 al mio paese d'origine, che è in Valtrompia. Poi, dopo aver allenato i ragazzini, diciamo, ho sempre continuato a giocare a 7 come amatore, perché diciamo anche gli impegni lavorativi non mi permettevano di giocare a 11 perché anche certo. impegnativo. Sì, 3 giorni a settimana più o meno. Quindi ecco, è un'altra cosa. E allora ho detto, vabbè, mi piace allenare, mi piace comunque lo sport, perché non fare qualcosa di buono comunque a 7, ecco. Ovviamente calcio 11 è un'altra cosa, però assolutamente lo stesso. Anche un altro tipo di preparazione, un altro tipo di fisicità, di gioco. Esatto. È diverso, decisamente diverso. Mentre io ho un passato da giocatore a 11, ho sempre giocato, per me il calcio a 11, sono sincero. Uh-huh. Poi per limiti di età logicamente ho dovuto riadattarmi a 7, che comunque è bello, No, diciamo, è bello. Più divertente, meno impegnativo, meno tattico, meno forse spensierato, meno tattico, esatto. Un po' più vissuto, insomma, poi noi un po' più libero, un campo piccolo e lì si gioca alla grande. Sì. Beh, è sempre una battaglia, battaglia. Anche perché come dicevo ai ragazzi prima, mentre registravano, io applaudo sempre le squadre a 7, perché a volte sono davvero dei campi, indipendentemente da come vengono tenuti, però in condizioni veramente al limite della praticabilità, limite, e però esatto. si gioca comunque. Quello è veramente sintomo della passione e del cuore che c'è rispetto alla cura che spesso c'è a 11, in cui il campo è sempre tutto tirato. Invece tante volte a 7 giochi dove trovi, ecco. un po' il tempo dell'oratorio, no? Bravo. Si torna ai tempi dell'oratorio e quindi lì esce proprio la vera, il vero cuore, la vera passione per il calcio. Esatto. Diciamo che sono un po' meno viziati quelli a 7. Quelli a 11 sono. Dopo diciamo che le ginocchia e le caviglie ne risentono un po' di più del normale. Sì. Però c'è più, esatto, c'è però più. Però ecco, lì entra in campo la passione, dai. Va bene. Allora, volete mandare un messaggio a testa ai vostri giocatori? Volete dir loro qualcosa? Il messaggio lo faccio io, è di tenere i piedi per terra, di utilizzare la testa giusta, che è quella che ci ha premiato nelle ultime 5 partite, di vincere partita dopo partita, non guardare troppo la classifica e puntare sempre alla prossima, puntare a vincere. mentre io vorrei augurare a tutti i nostri giocatori e alle loro famiglie un buon Natale, un felice anno nuovo, e soprattutto anche ai nostri tifosi, davvero. Perché nonostante siamo a 7, credimi, siamo una delle squadre con più tifosi. C'è seguito. Veramente, tantissimo. Ma probabilmente è il terzo tempo che affascina, dalla squadra prima, forse è il terzo tempo che unisce. Siamo unisce tutti, esatto. Siamo sempre primi in classifica. Non c'è gara che tenga. Bravi. Allora vi aspettiamo per festeggiare nuovamente con noi. Speriamo siate ancora dei nostri presto. Grazie all'allenatore e al presidente di questa fantastica squadra. Ricordate voi il nome per tutti? Real Valle GSTL. Real Valle, va bene. Salutiamo anche ovviamente i calciatori che stanno ballando e festeggiando. Esatto. Ragazzi, a presto. Ciao! Ciao a tutti! Ciao, grazie. Ok.